a ciò che riguarda la parte economica, energia, eccetera, eccetera. Ci siamo trovati a metà degli anni 2000 proprio sulle questioni monetarie e diverse persone che poi hanno collaborato anche per varie cose si sono riuniti in cooperativa. Quindi questa è la genesi della cooperativa che formalmente nasce nel 2011. E che ha sede in Toscana, tra l'altro. Come? E che ha sede in Toscana, tra l'altro, no? Sì, sì, la sede è Arezzo. In realtà siamo sparsi sul territorio fra Lucca, dove sono io, qui in Monte Carlo. Tre persone sono a Genova, poi Siena, con le Valdelsa, due sono a Rimini, quindi siamo sparsi. Siamo un po' sparsi, ma vista la natura immateriale dei lavori non è che sia poi così necessario, o meglio, è necessario perché comunque un'azienda non la tiene in piedi con le videoconferenze. Però diciamo che ci siamo conosciuti su progetti estremamente difficili dal punto di vista umano, e quindi c'è un collante personale che va oltre l'immaterialità. E poi anche perché facendo comunque la parte infrastrutturale a progetti locali è naturale che siamo molto meno materiali rispetto a dover scaricare sul territorio una cosa, insomma. E quindi che succede? Dal punto di vista ci siamo conosciuti proprio su progetti di, chiamiamole, monete locali, che vanno da quello che fu lo Shack in poi, dove noi abbiamo fatto le infrastrutture informatiche, tutta la battaglia legale con l'Agenzia delle Entrate, fino a fare la prima stanza di compensazione per la Camera di Commercio di Rimini, come sperimentazione del primo ente pubblico a fare una cosa del genere. È stato un mezzo dramma, perché comunque è sempre molto difficile lavorare con questa gente, però la nostra è una volontà di dimostrazione che era possibile. E quindi nel far questo abbiamo sviluppato sia una parte informatica, che va sotto naturalmente una piattaforma di gestione di sistemi di pagamento locali, che possono essere di natura compensativa, di natura creditizia, come quel documento che abbiamo messo, oppure sotto forma di buono circolante, sia esso sotto base imponibile o fuori dalla base imponibile. Quella dipende dal contratto che c'è sotto, non tanto dalla forma contabile o dal giro della piattaforma che gli diamo, tant'è vero che nella nostra piattaforma abbiamo le tre tipologie di contabilità, e poi dipende da chi si rivolge a noi che cosa vuole fare sul territorio, e lì ecco che si arriva alla cosa. E quindi oltre ad aver messo quindi giù la parte informatica con tecnologie tradizionali, sentivo nel vostro incontro precedente che si parlava di una futuribile blockchain, che naturalmente è fattibile in varie forme e modo, però diciamo non è certamente necessaria in progetti di questo tipo in questo momento. E quindi oltre ad aver messo giù la parte giuridica, la parte delle piattaforme informatiche, ci siamo smazzati il territorio in lungo e largo, in giro per l'Italia, quindi facendo la parte pratica e avendo la risposta delle persone a quelle che sono queste forme di monetizzazione alternativa, diciamo così, che poi è in definitiva il vero cuore del progetto, in quanto l'informatica e la parte legale sono a corredo di quello che sono poi le azioni delle persone. Se non fai esperienza sul campo di quanto sia difficile da una parte, ma anche entusiasmante da quell'altra, mettere giù roba del genere, ecco che sei astratto sia nella programmazione sia poi nel voler fare questa attività di supporto ai territori. E lo dico senza cerco di stringere sempre i tempi quando si parla di queste cose. Rispetto ai grandi gruppi come possono essere Sardex e roba del genere, noi siamo la parte, tra virgolette, perdente, perché abbiamo sempre messo come condizio sine qua non nel lavoro che i circuiti che noi andavamo a facilitare fossero di proprietà degli stessi utilizzatori, e questo naturalmente rende tutto molto difficile. È molto più semplice trovare un finanziatore oppure lavorare per grandi gruppi che mettono il capitale di partenza che serve a dare l'innesco a questo tipo di attività, e quindi in definitiva vediamo che la parte, fra virgolette, vincente in questo momento sono loro, per ovvi motivi, perché i soldi di Banca Sella, eccetera, naturalmente stanno sanando le varie problematiche che ha. Ora, questo naturalmente se si tratta di circuiti o compensativi esclusivamente aziendali o di altro genere. La possibilità, diciamo, di poter utilizzare il cambio in euro è un qualcosa che dal punto di vista dell'Italia noi riteniamo definitivamente sdoganato dopo DigiPay for Grow, perché comunque in Italia quando si è trattato di cose di questo genere abbiamo sempre evitato fino al 2016 in definitiva, anche solo di parlarne, perché noi abbiamo fatto diverse battaglie con l'Agenzia delle Entrate per inquadramenti fiscali, eccetera. Con DigiPay for Grow la cosa non si pone più, in quanto è stata la stessa Commissione europea iniziare a sperimentare forme di questo genere. Per cui ecco che abbiamo rifinito quello che è il nostro apparato di programmazione, messo giù quelle che sono le varie proposte e, essendo noi più che altro incentrati a livello di rapporti con le istituzioni, con l'Emilia Romagna, dove c'è un tavolo con la regione, vabbè, a parte il discorso della sperimentazione con la Camera di Commercio di Rimini. Con la Regione Emilia-Romagna c'è un tavolo sull'economia solidale, quindi è incapsulata all'interno di una legge del 2014 che è entrata in attuazione l'anno scorso, che prevede la sperimentazione di queste forme di sistemi di pagamento. E quindi, anche se è molto lento, noi siamo i referenti al tavolo con questi signori e quindi abbiamo a che fare con i vari comuni che ci chiedono come poter fare. Insomma, iniziano a presentarsi, anche perché l'accelerazione data da questa, chiamiamola pandemia, da questa situazione ha reso molto più veloce anche diciamo così, la necessità da parte degli enti locali di vedere come poter andare a supportare le persone, visto che tanto non andranno certo al MISE a bussare, ma andranno al Comune. E anche se noi siamo abbastanza fortunati, diciamo così, dato dal territorio misto, artigianale, agricolo, industriale, mentre nelle città come Bologna, eccetera, già lì si vede delle cose estremamente, estremamente preoccupanti. Ecco perché abbiamo fatto quel documento che abbiamo spedito a tutti i nostri referenti, che è il documento iniziale con cui abbiamo iniziato a parlare, dicendo che noi non avremmo lavorato con soggetti che ci volevano utilizzare per bypassare il problema dei buoni dello Stato, cioè della serie: sì, che bello, ci piace il vostro progetto, intanto risolviamo il fatto che lo Stato a marzo ha dato i buoni spesa, noi non sappiamo gestirli perché non abbiamo l'infrastruttura, poi vedremo. In quel caso lì non abbiamo nemmeno continuato a parlarne, quindi stiamo parlando con diversi comuni, però naturalmente arrivare alla conclusione di questi iter è sempre estremamente difficile. Venendo a quello che avevo sentito, poi mi zittisco. Anche noi, infatti, diciamo che a meno che il Comune non abbia, come in alcuni casi, una partecipata estremamente particolare che possa fare operazioni di questo genere, diciamo, ho utilizzato un'associazione esterna, o ne costituite una, con cui fare proprio quello che va fatto per ovvi motivi. Insomma, quindi mi risuonava perfettamente il ragionamento fatto. E non è tanto una questione di importi, sentivo che non c'erano grandi importi, ma questo non ritengo che sia effettivo. Per una fase di partenza o di dimostrazione sia così importante. Questo perché in tutto il nostro sperimentare a giro per l'Italia abbiamo visto che laddove la partenza che si vuole dare a questi circuiti sia socio-economica, la cosa più importante è fare proprio piccoli circuiti dimostrativi dove persone convinte iniziano a scambiare in questo modo, ancora di più in questo caso se sottostante comunque c'è una possibile conversione, di modo che rendano visibile che cosa succede se si amplia il numero dei circuiti. Infatti, diciamo, il successo maggiore l'abbiamo avuto a Reggio Emilia, dove abbiamo dotato quattro piccole aziende con bisogni ridondanti di 1.000 buoni l'uno, dopo 5 mesi e mezzo ne avevano scambiati per 16 in due. Questo naturalmente ha creato quel cono di luce che ha fatto associare tutti gli altri e dato l'innesto. Quindi ecco che, vedendo che mi sembra che lei sia molto preparato, perché raramente si sente fare certi discorsi, c'è una Pro Loco che ha determinate caratteristiche. Mi sembra che ci siano le condizioni per poter parlarne effettivamente in maniera fattiva, quindi non di grandi sistemi ma di applicazione territoriale, che poi è il nostro campo. Ecco perché noi non siamo molto visibili, non facciamo interviste, abbiamo fatto convegni eccetera fino a 2010-2011 massimo, ma tante volte la parte infrastrutturale si rivolgono a noi per questo, quindi siamo abbastanza nascosti. Francesco lo sa e sa qual è, che cosa ci piace fare, insomma. Fine. Vabbè, sono tanti punti che ha toccato, ma sono perfettamente in linea con la visione che appunto ne abbiamo parlato con Francesco l'altra volta, quella che avevo io. L'unica cosa, per andare subito nel concreto, alcune cose che è bene che abbiate chiaro, che sono le possibili difficoltà. Riparbella siamo 1600 residenti, con un'economia locale, io non dico azzerata per essere gentile, ma quasi, nel senso che in paese sono rimasti aperti due alimentari, una macelleria, la farmacia, il bar e la ferramenta, praticamente. Poi vabbè, qualche cos'altro ogni tanto apre e poi richiude. Quindi siamo alla sussistenza minima. Questo da una parte è negativo, ma dall'altro può essere anche positivo, perché un'iniziativa di supporto a loro li trova disponibili, perché ne hanno bisogno, no? Però è chiaro che non faremo mai grossi numeri, anche perché Riparbella gravita economicamente su Cecina, che è il centro commerciale della Bassa Val di Cecina, storicamente, per questioni geografiche e di connessione delle viabilità. Passare, come con Francesco se n'era parlato, ai comuni limitrofi è molto difficile. Vabbè, Paolo è toscano, quindi sa bene com'è la situazione dei rapporti con i confinanti. Cecina in questo momento ha un'ulteriore difficoltà di un sindaco che è stato, per suoi comportamenti continui, completamente isolato anche all'interno del PD, che era e il suo partito, perché insomma col PD è un po' così, entrano e escono, ma, e quindi non si riesce ad avere un contatto diciamo stabile e affidabile con cui costruire qualcosa dall'alto. Dal basso però Cecina è storicamente, Weber l'avrebbe definito una città commerciale, perché ha sempre vissuto, no, del commercio sull'Aurelia di chi andava nelle località turistiche negli anni 60 e 70, lì è rimasta, quindi i negozianti ce ne sono tanti, con tutti i problemi che sappiamo. È chiaro che l'abitato, cioè il residente riparbellino, spende certe categorie, no? Andrà giù al mercato, all'alimentare, le robe essenziali. Poi abbiamo tutto il flusso dei turisti, che a noi interessa, perché Riparbella rispetto ai territori limitrofi è uno degli alberghi diffusi, chiamiamolo così, tra agriturismi ma anche centri residence abbastanza grandi e villaggi abbastanza importanti. Sono tutti molto autonomi, perché non hanno mai trovato nell'amministrazione qualcuno che lavorasse sul turismo veramente, anche perché erano tutti sindaci che non avevano mai fatto impresa, quindi non avevano minimamente esperienza di come muoversi, però sono cresciuti da soli e ci sono. Stiamo cercando, con un progetto che si chiama Riparbella Resort, di ricreare un tessuto connettivo proprio a livello di dialogo con le varie strutture, in maniera tale da presentarsi poi ai clienti con delle offerte, non tanto dei posti letto che sono già organizzate nel loro canale di vendita, ma di servizi accessori quando sono qua, che vada dal mountain bike, al trekking, al corso di cucina, qualunque cosa, insomma al cavallo, qualunque cosa, no, ruoti intorno che queste strutture da sole non riescono a fare, perché anche se c'hai 100 posti letto non è che puoi anche organizzare queste cose, mentre mettendoli insieme riusciamo. Lì su quel canale secondo me è una strada leggermente diversa, però può funzionare. Ora semplifico, la tourist card che c'hai un cashback se spendi in paese o dei prego degli sconti o robe del genere, no? Cioè il problema è che è di periodo, cioè va da aprile coi tedeschi per un piccolo, no, quella finestra in cui vengono giù loro, e poi per adesso il turismo qui è ancora molto stagionale, quindi al di là del Covid, diciamo da metà luglio a fine agosto, quello che c'è prima è molto poco, quindi abbiamo, diciamo, due settori che possono funzionare. Io non li scollegherei, cioè la Proloco con i residenti e con la storia, il baratto sociale, l'avete chiamato qui, che va bene, no, come modello, può partire anche subito. Poi noi abbiamo quell'altro canale. Dimmi Paolo. Il baratto sociale, perché qui ad Alto Pascio, io sono di Monte Carlo, diamoci del tu. Va bene darsi del tu? Sì. Non so se conosci dove è Monte Carlo, qui vicino a Lucca. Sì, no, adesso non sono mai venuto, conosco Lucca, sono venuto per qualche riunione, però Monte Carlo lo si sente. Esatto. Il baratto sociale lo fa un comune vicino che si chiama Alto Pascio. Mm-hmm. E fa proprio questo, e lo fa anche Capannori, il mitico comune di Capannori. Cioè. Quindi la struttura è quella lì del baratto sociale, così come il baratto amministrativo inizia a essere già molto più conosciuto per ovvi motivi. E al tempo stesso, per una cooperativa di comunità a Malles, sarebbe in Alto Trentino, proprio al confine con l'Austria, anche loro stanno pensando di poter utilizzare un sistema di pagamento locale per poter valorizzare in qualcosa che non sia euro, ma in prodotti, servizi quantificati in un'altra valuta, in un altro sistema di pagamento, per poter dare qualcosa di in più al turista rispetto a quello che può dare qualcosa di limitrofo, perché naturalmente il loro problema è: io ho disponibilità di beni o di servizi, che ti posso dire, una bottiglia di vino in più, un olio, l'olio là non ce l'hanno, ma comunque mele, viaggio, visita all'azienda oppure alle cose eccetera, che non le posso dare come surplus, ma come posso valorizzarle in modo che non sia quando io vendo qualcosa la permanenza più un viaggio, una visita all'azienda, 5 kg di mele. La valorizzazione di queste cose in più non è fattibile se non con un sistema di pagamento alto. Quindi ecco perché il problema ce l'hanno tutti. Noi nel documento si ipotizza di dire: se c'è un accordo pubblico-privato dove, ad esempio, il 50%, e quello lo facciamo per una semplicità di calcolo, il 50% viene coperto, un eventuale buono da euro, da parte di ente pubblico barra associazione come può essere la Proloco, e coinvolgo le aziende aderenti dicendo che ognuno garantisce per una quota tale, per cui è l'altro 50% in beni e servizi, quindi non convertibile, posso emettere un tot di, chiamiamoli buoni, come infatti si sono chiamati, buoni circolari, che possono essere utilizzati in vario modo, sia per farli entrare in circolazione tramite pagamento, tramite sussistenza al volontario, che come al solito non prende assolutamente nulla, il volontariato sta sparendo infatti, così come l'azienda turistica che dice: ok, io garantisco una quota da 1.000 euro, quindi non tiro fuori un euro ma garantisco i beni e servizi per tot, e quindi ricevo questi buoni che posso dare alla mia clientela per poter fare il pagamento di servizi comuni, la cosa poi inizia a essere effettivamente circolante. Naturalmente è un patto pubblico-privato. Per arrivare a questo, la cosa più intelligente da fare, abbiamo visto, è il circuito dimostrativo con 4-5 aziende da poter seguire e da far seguire, far vedere all'esterno come funziona, la semplicità, la il telefonino per inquadrare un QR code e fare un pagamento, oppure uno può mettere anche in futuro la moneta di conio, non stampata ma di conio sì, per il turista, cioè ne può studiare, però naturalmente noi abbiamo visto che conviene sempre andare a tappe, perché non solo c'è come si dice, il dimostrare alle varie persone in maniera quindi sequenziale la bontà del progetto se viene attuato in maniera coerente, ma poi al tempo stesso le persone che fanno parte della struttura del progetto ne prendono dimestichezza, perché fino a che se ne parla c'è un determinato sentire, ma quando poi si pratica le persone che lo propongono, prendendone dimestichezza, diventano sempre più brave e quindi il meccanismo si vola sempre di più, ecco. E questi progetti sono molto pratici e poco teorici. Paolo, allora torniamo, sto cercando di vedere quella cosa più pratica anche nel coinvolgimento della merce, del prodotto. L'altra volta ho accennato a quel progetto dell'olio, cioè di andare con uno schema da sharing economy dai proprietari delle ulivete che non raccolgono a proporre di concederle incomodato per X anni o quello che sarà, e noi coi volontari, la Proloco, coi volontari che si iscrivono, si lo raccoglie, lo porta al frantoio, abbiamo un frantoio qui nel comune, producendo così l'olio che poi la stagione dopo, cioè in primavera, inizia a essere venduto ai turisti, quindi si crea un piccolo ritorno economico e ai volontari gli si dava un riconoscimento, io la chiamerei quasi la tokenizzazione dell'ora di volontariato, no? Cioè diamogli un riconoscimento, poi loro ne fanno quello che vogliono, o lo riversano nella cassa comune per sostenere chi ha bisogno, oppure se lo spendono in paese con i vincoli che ci siamo detti, cioè all'interno del circuito, in maniera tale comunque di fare un'economia, di stimolare l'economia locale. Una quota può essere anche riconosciuta in olio, perché poi no, ogni ora di raccolta ti dà diritto a un buono che corrisponde a un litro d'olio, adesso no, certo. Non è, ma è il concetto. L'unico problema di questa cosa è la contabilizzazione. Per quello io l'altra volta avevo buttato la domanda non tanto sulla blockchain in sé, quanto sul stablecoin, il coin, cioè perché più che altro lì la contabilità poi va in automatico, una volta che l'algoritmo è programmato non abbiamo da discutere di camere di compensazione o robe del genere, anche economicamente parlando. Ora, non conosco il vostro sistema, ho solo visto nel fogli che avete mandato, c'è il telefonino, quindi più o meno immagino che al di là della centralizzazione o decentralizzazione, che non è un problema che ci interessa, più o meno no, funziona in automatico. Se, forse su questo progetto che è in fieri, che va fatto, potrebbe essere il cavallo per partire. È molto specifico, no? Si limita l'olio, ma siccome tanto qui non abbiamo uno da coinvolgere tanti commercianti perché sono pochi, qui si va a coinvolgere il frantoio, i proprietari delle olivete, a cui anche a loro si può, invece di dargli una promessa di bottiglia di tot olio, gli si dà dei token o dei buoni, chiamiamoli come vogliamo, per andare a convertire in olio. Che anche lì la produttività poi ogni anno cambia, quindi no, dico che siamo in borsa, ma comunque uno fa una stima prudenziale, da una stima prudenziale, poi a fine quando si è vista la percentuale di resa il buono ha un corrispettivo determinato in tot chili d'olio, quello che sia. Non lo so, è una proposta, non è un vincolo. L'idea coinvolge molto il territorio, perché qui le olivete, ma come dalle vostre parti, a Lucca è uguale, qui forse siamo più collinari, più difficili, quindi tante, e c'è molto frazionamento, quindi tanti proprietari, soprattutto delle seconde case o venute da fuori, non hanno più modo di raccogliere, quindi stanno andando in abbandono. Il progetto nella prima fase, per semplicità, prevede solo la raccolta e quindi parliamo di olivette ancora, diciamo, accessibili anche dal punto di vista della potatura, insomma di come sono delle condizioni generali. Se riusciamo a partire quest'anno così, l'anno prossimo abbiamo già i contatti con l'Istituto Agrario di Cecina, che è specializzato, cioè specializzato, insomma, che la cosa che sa far bene è proprio la potatura delle olive, il mantenimento delle olivette. Quindi il secondo step è ai proprietari che invece hanno olivette che non sono in questo momento in produzione perché sono troppo abbandonate, gli si propone l'operazione più completa. Ce la dai per tot anni, perché chiaramente l'ammortamento dei costi è, però tu quando apri la finestra, invece di vedere un ulivo pieno di rovi e tutto fatto male, avrai tutto il tuo terreno tenuto benino e potrai comunque recuperare un po' di rovi. Quindi è un progetto che ha abbastanza lungo termine se parte, ha risvolti anche ambientali, perché paesaggistici, per l'importanza nota delle olive. Abbiamo, l'avevo detto a Francesco, ma lo sa perché conosce Paolo e quant'altro, abbiamo i migranti ospiti alla Melatina, che tra l'altro è proprio di fianco al frantoio con cui ho già parlato, e sono disponibili a garantirci la copertura della manodopera, perché il volontariato bisogna poi vedere quanti verranno a raccogliere le olive veramente, non lo sappiamo, quindi siamo abbastanza tranquilli che con le poche forze che abbiamo adesso insieme ai migranti qualcosa riusciamo a fare, magari non tantissimo, insomma lo sapete anche voi, queste cose non sono, insomma non è un'industria col si timbra il cartellino, però dovremmo riuscire a partire. L'infrastruttura software, che è la base più importante, sia perché deve essere semplice e deve essere precisa, è compito di Paolo, se non ho capito male. Giusto? Sì, noi abbiamo una piattaforma di gestione dove dentro c'è sistemi di emissione, distribuzione e di contabilità ordinaria. Quindi tutto quello che serve per la tracciatura completa, ma anche per la gestione sia automatizzata, ma anche manuale. Il caso da trattare manualmente... c'è una partita doppia, per cui arrivi e fai quello che è l'operatività anche manualmente. Quindi dal punto di vista, ci sono tutti i bilanci che tra l'altro si può decidere se mettere in chiaro o no per trasparenza, eccetera, bla bla. Quindi dal punto di vista, come si dice, della gestione software della cosa, c'è tutto quello che serve per sia come sistema di pagamento, che deve utilizzare il negoziante, la persona, l'immigrato che ha lavorato e quindi che riceve, sia chi sta nel back office che deve fare un'attività di verifica e di controllo, insomma, di monitoraggio in definitiva. Gran parte è monitoraggio perché le operazioni manuali dipendono da quello che uno vuole fare. Per il resto sono automatizzate transazioni, emissione, distribuzione, dipende, ad esempio, un cambio. Quello naturalmente ci sono richieste manuali e poi una rifinitura manuale, perché il cambio può essere di un tot di meno, bonifico, contanti nei piccoli casi, quindi ecco che in quel caso lì naturalmente non facciamo altro che fare, come facciamo sempre, una bella dimostrazione operativa e tutti i dubbi vengono sciolti nel giro di poco. Paolo, una traccia, cioè un caricare sul telefonino l'ora di volontariato, che poi potrebbe essere buono, no? È la stessa cosa, io lo chiamo l'ora, nel senso mi vado a lavorare all'olivetta, sono le ore 10, smetto alle 11, con il QR code, col telefonino, una foto, cioè un semplice sistema per cui rimane la tracciabilità di quante ore di volontariato, quanto tempo di volontariato del mese, il soggetto, poi parliamo di soci pro loco, anche per toglierci dei problemi fiscali, no? Perché fino a 3.000 euro noi li possiamo dare di rimborso, per cui non abbiamo problematiche di sorta. Questo secondo me potrebbe essere la base, perché a noi tecnicamente toglie il problema della contabilizzazione delle ore di volontariato che diventano trasparenti, nel senso certificate, perché c'è sempre un operatore nostro presente, quindi se anche tu arrivi un'ora dopo, quando arrivi mi fai vedere il telefonino, si avvicinano i due telefonini, ci sarà un QR code, qualcosa, no? Si fa, in questo caso qui non è dentro la piattaforma, ma lo programmiamo, nel senso le anagrafiche ci sono già tutte, e quindi a quel punto programmiamo un sistema di registrazione presenza con orario, a quel punto lì, con un resoconto dove voi siete in grado di poter vedere le cose. Quello si può fare, non è un problema. Sì, perché poi vedere le cose, dopo il cambio può essere anche in automatico, raggiunte le tot ore, così si evita anche la gente che fa le mezz'ore tanto per dire che c'era, ma raggiunte le tot ore e ti viene automaticamente accreditato il famoso buono. Certo, poi sì. Vogliamo il discorso che facevo del valore dell'olio, ma appunto si può fare una stima e più o meno ci siamo, ma insomma lì poi si può intervenire. Questo potrebbe essere una partenza. Quella dell'orto, che ho anche lì, no, ne ho parlato, c'è, però l'orto in realtà per adesso i partecipanti alla fine siamo pochi, perché non c'è stata fame nel territorio, c'era paura sotto il Covid, ma poi in realtà l'estate l'hanno tutti passata bene, nessuno si è presentato in comune a chiedere sostegno. Quest'inverno non so cosa succederà, poi l'orto le sensazioni sono ovviamente non piacevoli, però vai a saperlo e speriamo di no. Poi l'orto d'inverno rende anche meno, c'è anche meno robe da fare, quindi al di là che stiamo andando avanti, abbiamo messo le prime, gli spinaci, insomma, radicchio, tutte le cose che verranno, c'è da fare anche nell'orto. C'è anche un pollaio e invece lì abbiamo avuto notevole riscontro con le uova, come già sapevo per esperienza mia, le uova vanno a ruba, anche se te le pagano pochissimo, ma non era quello il nostro obiettivo, per cui si può fare lo stesso ragionamento degli ulivi, lo schema è lo stesso, chi si dedica a dar da mangiare le galline, a dargli l'acqua, il pane o porta, gli si dà un tot di buoni che sono convertibili anche nelle stesse uova. Scusate un attimo solo, perché sta scadendo questa sessione, vi rimando un altro collegamento perché c'è meno di un minuto, così concludiamo, okay? Allora chiudo questa che sta scadendo e vi mando un ulteriore collegamento. Eccoci. Pronti via. Ok. Ora, non so, Paolo, dici tu cosa può servire per partire. Il comune, lo ribadisco, è sempre presente. Il motivo di partire con la Proloquo era la semplicità organizzativa. Comunque far passare in consiglio comunale una convenzione, qualcosa che certifichi, no, che il progetto rientra nell'alveo del territorio ed è appoggiato dall'amministrazione comunale, non è un problema. Abbiamo anche come ulteriore strumento possibile, che in Toscana qualche valore ce l'ha, il centro commerciale naturale, più che altro perché finite le elezioni magari qualche finanziamento arriverà e qualcosa abbiamo anche già preso per fare alcune opere e anche quello è coinvolgibile, no? Ci manca un'associazione che rappresenti le strutture ricettive per i motivi che vi ho detto prima, ognuno è andato per la sua strada, e poi anche perché le strutture, come vi ho accennato, hanno dimensioni molto diverse, cioè ce ne sono 4-5 molto grandi e poi ci sono i classici agriturismi fino ad arrivare a quello veramente originale, biologico e quant'altro, che però sono piccolini, quindi hanno sia circuiti clientelari diversi, sia modi di ragionare che sono completamente incompatibili con l'imprenditore che ha il grosso centro, e quindi metterli insieme è un po' difficile, no? Però con la Proloco riusciamo, e soprattutto col progetto che vi ho detto, Riparbella Resort, che è partito, si sta ricreando un tessuto, è uno spazio in cui riuscire a confrontarsi con tutti. Ma diciamo che la cosa che facciamo solitamente è incontrarci anche fisicamente e fare una dimostrazione di quello che c'è a disposizione dal punto di vista materiale, o meglio, immateriale, essendo una piattaforma. In modo che le persone che sono coinvolte dal punto di vista dell'infrastruttura iniziano a giocare con piattaforme, eccetera, e prendono un po' di, diciamo così, un minimo di pratica e vedono quelle che sono le potenzialità, di modo che si toglie un po' tutte quelle che sono le domande astratte che in realtà sono quasi banali da soddisfare, ma prima si fa meglio escono dalla testa. E poi in quel caso lì, poi dopo mettere in sequenza le varie modalità per cui i buoni e quindi il sistema di pagamento può essere attivato / regolamento, diciamo così, con cui vengono accreditati i buoni, vengono date le persone che lavorano, cioè tutta la parte di l'algoritmo, diciamo così, di inserimento di questi buoni in circolazione, e poi viene tutto incastrato tutto insieme e avviene la partenza. Quindi la prima cosa da fare sicuramente è vedersi per fare una dimostrazione pratica, perché al computer eccetera è quasi impossibile, insomma. Tra l'altro, sì. Una volta tanto siamo in Toscana, non devo fare mille di notte. Siamo da Lucca a Riparbella, la strada è breve, ma sei... La conosco bene, perché sì. nella mia vita insomma, come io provengo dal settore Olaf, e quindi di famiglia, come produzione in grosso, e tante volte per lavoro, quindi sono a Livorno, cioè fino a Follonica, fino a Tarquinia addirittura arrivavamo, e quindi conosco benissimo la zona. Queste zone. Dicevo, ma riesci per la presentazione a mettere giù qualcosa che sia calzante sul discorso degli ulivi? Del progetto Ulivi? Certamente sì, della serie. Come farei io a emettere buoni su un progetto del genere, come a quel punto lì entrano in circolazione e vengono accettati? Sì, ma quello... Ma questo te lo dico perché da una parte mi agevola, tecnicamente mi risolve il problema contabile che è complesso, e dall'altro mi permette di portare avanti questo progetto senza metterlo al centro, cioè farei la riunione con proprio le persone interessate al discorso Ulivi, sia nel senso i proprietari che il frantoio, che i volontari, la Proloco, il comune e via dicendo, e lì partendo, così creiamo uno zoccolo duro che parte e poi i buoni iniziano a girare con quel sistema che si è anche scritto lì, non si scappa, perché poi andare a prendere i commercianti sono pochi, ci vuole un attimo, e non ci dicono di no quando è l'amministrazione comunale che te lo viene a dire, ma poi siamo tutti in paese, come diceva Francesco l'altra volta, la fiducia qui è sulla propria faccia, ci si conosce, quindi non c'è il problema poi non sta per parlando. La difficoltà del commerciante è che è una... Lo pensano come un adempimento in più, anche se potenzialmente ti può dare dei vantaggi. E quindi bisogna accompagnarlo. Tanto è vero che siamo più psicologi che programmatori, perché solitamente facciamo due operazioni. La prima è quando la persona riceve un buono, no? Te cedi il commerciante che vende la pasta e riceve dei buoni. Se sono dei buoni conosciuti, come possono essere buoni pasta, ormai li ha integrati nel cervello, ma questi sono nuovi e quindi... E quello che facciamo noi è, hai ricevuto questi buoni, ti prendiamo per la mano e ti portiamo a spenderli, di modo che c'è la vendita senza ricezione di euro, ma la spesa senza ricezione di euro. A quel punto lì ha fatto il giro. Naturalmente in situazioni come questa è tutto molto più semplice. È quando i territori sono molto grandi, che è molto problematico, eccetera. Infatti in pratica nessuno è mai riuscito a partire su grandi territori che non siano grandi conglomerati business, insomma. E invece in questo caso è una cosa fattibilissima. Il problema, Paolo, è che qui, come hai detto tu, c'è molta resistenza all'innovazione e, vabbè, e poi la difficoltà ancora nell'usare le nuove tecnologie, quindi qualcuno è più vicino al telefonino, ma c'è ancora qualcuno che ha ancora il vecchio Nokia al massimo e non l'accetterà mai. Però vabbè, questi sono problemi che di volta in volta li affronteremo, tanto sono da psicologo, come hai detto, ogni soggetto è diverso, ha la sua storia. Quello fatto della Proloco è introdotta, abbiamo le persone che sanno, insomma, più idonee per andare a parlare con quel certo soggetto. Ma però anche per questo ti dicevo che se partiamo con l'Ulivi è più semplice, perché il circuito commerciale è, no, è un attimino distaccato, tutti hanno... Diciamo che la struttura sarebbe molto semplice, come San Martino del Rio faceva determinati lavori proprio con i migranti che hanno lì e che quindi venivano remunerati con buoni, con sottostante euro. In questo caso addirittura c'è anche l'olio, per cui c'è il prodotto, eccetera. Si tratta di fare una cosa molto simile, cioè della serie: noi possiamo andare a anticipare quella ricchezza prodotta dalla vendita di olio, se si vuole partire subito, e in parte garantiti anche da quel piccolo capitale che c'ha la Proloco, e quindi emettere un tot di buoni. Questi signori che verranno e prendere l'elenco delle persone che lavoreranno agli Ulivi e al progetto, i quali riceveranno in anticipo un po' di questi buoni per far partire il circuito, e nel frattempo andranno a fare i lavori con cui che verranno rendicontati, prendendo le ore e trasformandoli in quel caso in buoni. Quindi la struttura di innesco è abbastanza semplice. Paolo, aggiungo, prendendo spunto da cosa aveva detto Francesco l'altra volta, anche la temporizzazione qui può tornare utile, nel senso che se uno converte il buono, lo usa nei prossimi mesi, vale 50, se invece aspetta marzo, aprile, vale 100, perché in quel momento l'economia dell'olio ci torna a casa. Sì, diciamo questo, che è uno dei motivi per cui noi non abbiamo mai accettato di fare circuiti a conversione immediata, è perché risolve soltanto un problema di non avere un'infrastruttura. Però non cambia nulla se io ti porto un buono da 100 euro o mi dai 100 euro economicamente. Invece l'anticipo, come in questo caso, intanto abbiamo visto che c'è la possibilità di avere un valore futuro. Quindi materializzarlo in buoni per poter far partire della circolazione, per poi naturalmente dopo essere coperti, fa sì che c'è un aumento di liquidità nelle tasche delle persone e di muovere quindi persone che non sono economicamente attive. Quello ha un senso economico, infatti è anche la cosa che ci muove noi, insomma, perché noi si proviene da studi monetari, ci siamo trovati per quello, insomma, nella battaglia monetaria contro il sistema bancario, insomma. Per cui io posso mettere insieme due righe, te le sottopongo a te, le sottopongo a Francesca, eccetera. Voi naturalmente scrivete, no, non saremo, no, noi non proponiamo mai nulla della serie, anche qui lo dico sempre, noi non facciamo gli esperti che vengono da fuori, che tante volte, come succede, vengano a far vedere che si possono fare cose. Sarà naturalmente una proposta vostra, delle persone che si occupano della partenza del circuito, insomma, quindi allo scritto che io faccio poi dopo mettete le vostre firme, insomma, la vostra proposta, eccetera, eccetera. Noi non appariamo mai se non come chi mette a disposizione la strumentazione, o i professionisti a cui ci rivolgiamo per avere... Sì, Paolo, sono originario di Milano, non ho problema di campanile, il problema delle firme ci saremo, secondo me dovremmo esserci tutti, anzi tutte le iniziative che stiamo facendo in questi mesi, in questi anni qua a Riparbella sono proprio di unire dando spazio a tutti, che è difficile perché poi ognuno vuole sempre la sua bandierina prima degli altri, ma ci riusciamo, sì. Ci riusciamo. Sì, no, io ho sempre odiato, no? L'esperto che viene da fuori e mi propone un sistema. Nella realtà certe cose prendono fiducia perché me lo propone la persona a cui ho fiducia, non certo un pallavolo che viene da Monte Carlo di Lucca a dire, capito? Quindi è quello che noi non facciamo più da tanto tempo, mentre prima sbagliavamo, ma si tratta di più di 10 anni fa, quando ci chiamavano a fare le conferenze per presentare cose, ti dicevano tutti bravo, bravo, ma poi la fiducia non si creava così. Quindi sono fra le tante cose che abbiamo imparato nel corso del tempo. E poi fatto questo, troveremo un momento di vedersi per fare una dimostrazione, così voi sarete tranquilli che avete a disposizione uno strumento che vi serve per fare cosa. Sì, in tempistica sapete bene quando si raccolgono le olive, non è che c'è tantissimo tempo davanti, se vogliamo partire, Sì, no, lo perché... so perché c'ho l'oliveta anch'io. Però No, no. se la piattaforma, come mi dici, l'avete già sperimentata ed è soltanto appunto da mettere a posto, diciamo, il layout per No, noi... la cosa che va inserita è un conteggio delle ore, nel senso la piattaforma gira già da anni e viene continuamente aggiornata per alcuni motivi. Mentre ad esempio a Milano abbiamo un circuito di privati che si sta aprendo una delle aziende e loro fanno ogni ora 6 fidi, si chiama Mi fido di noi. Però non gli abbiamo mai messo un sistema automatico di concambio fra fido e ore di lavoro che hanno fatto, eccetera. Quindi in questo caso qui ci vuole un attimino, non tanto, ma può essere fatto andando avanti nel corso come si dice, della presentazione del progetto, di far sì che gli utenti della piattaforma abbiano un sistema di tracciamento orario, diciamo così. Questo è una cosa che va programmata, non è difficile, ma va programmata. Ok. Francesco, Quindi fai tu il report? Vi ho registrato, per cui ho registrato l'audio, anche per farla avere a Paola, e poi c'era anche Jeff che voleva sapere. Semmai stabiliamo la tempistica anche il prossimo appuntamento, cioè quando ci possiamo rivedere, ne parliamo in un secondo tempo per fare la dimostrazione pratica. Io direi quando avete messo a punto il tracciamento orario, tu ci fai sapere, Paolo, ed eventualmente sì, no, poi... quello non lo faccio in 2 giorni, mi ci vuole un po' di più di programmazione. Esatto. E diciamo che io in un paio di giorni metto giù lo scritto relativamente a quello che per me può essere il progetto di utilizzo dei buoni per questa tipologia di cose, che ripeto è molto Ok. simile a San Martino del Rio, per cui è effettivamente abbastanza veloce da mettere giù. Ci metterò anche il discorso della conversione oraria, dal punto di vista dell'automatizzazione delle cose da fare, e poi, ripeto, da lì in poi non è un problema. Tanto io, tra l'altro, sicuramente per tutto il mese di settembre sarò disponibile, perché noi lavoriamo con l'Italia e col Brasile, mentre dal 1 ottobre il nostro programmatore capo va in Brasile, dove abbiamo lì un'attività, e quindi anche io ci sarò sempre, ma sarò molto preso dalle attività che abbiamo là, e quindi nel mese di settembre mi muovo abbastanza tranquillamente. Non ci sono impegni come si dice, con la regione Emilia-Romagna, perché là c'hanno una marea di casini su quelle che sono state le problematiche post-Covid, per cui abbiamo rimandato le attività a inizio di ottobre, anche con loro. Allora dovremmo darci la scadenza di arrivare a qualcosa di compiuto entro il mese di settembre. Se per me sarebbe molto meglio dal punto di vista lavorativo, sì. Anche perché in questo caso posso seguirlo in maniera sempre io, senza farvi magari seguire di qua e di là da altre persone della cooperativa, in definitiva un paio di persone. Ma visto che una volta tanto siamo qui in Toscana, la seguirei davvero volentieri Certo. personalmente. Quindi allora si Allora. potrebbe fare così, che quando tu hai messo a punto questo quadro generale tracciamento orario, poi si organizzerà la dimostrazione pratica, Sì, ecco, io vi coinvolgendo i invierò soggetti. Prego, prego. un link di iscrizione alla piattaforma, vi iscrivete di modo che il do l'accesso, un accesso demo, di una demo, lato, come si dice, lato utente, che io vi darò un accesso dove c'è tutto, poi da lì si possono togliere cose, almeno così vedete tutto, quello non ci serve, allora lo oscuriamo, quell'altro non ci serve, però queste sono poi le fasi di dettaglio. In modo che poi quando ci vediamo avete già username, password, eccetera, per poter fare delle semplici prove. Ok. Se Paolo, se mentre produci questo documento ce lo fai avere anche nelle bozze non conclusive, a me è utile perché intanto lavoro sull'aspetto più sociale di presentazione, no? Cioè uso la tua base per attaccarci tutti gli aspetti invece dell'Univeta, del proprietario e via dicendo. Infatti, il mio sarà molto asciutto e tecnico sul fatto di poter emissione, cambio, circolazione, eccetera. Poi tutto il contorno è naturale che ce lo puoi mettere tranquillamente te. Io non sto a ripetere, non sto a metterci la quelle cose lì che non mi. No, ma è per andare avanti, non cioè, a blocchi chiusi, no? Se tu mi mandi già delle bozze, anche se non sono Certo. definitive, a me permette di creare un attimo la scenografia, no? Cioè mettere i capitoli al loro posto, poi se è la versione definitiva la inserisco quando mi dice che è ok. No, ma fai conto che, ti ripeto, essendo qualcosa che noi abbiamo già fatto, ci metto molto poco e sarà molto asciutta. Per cui diciamo che sarà la versione bozza finale quasi da subito. Poi te potrai cambiare, ammorbidire, indurire, variare, eccetera, perché comunque la parte tecnica effettivamente c'è poco da argomentare dal punto di vista dialettico, insomma. Quindi massimo un paio di giorni e sono in posto. Perfetto. Perfetto. Allora possiamo chiudere qui. Sì, non Mi so se pare. le email ce le siamo scambiate, sì, no, non mi ricordo. Ce le possiamo scambiare volendo anche su WhatsApp, sul Esatto, gruppo sì, infatti. WhatsApp. Sì, anzi, Dai, proponiamoci di molto fare questo e poi così ci scambiamo tutto quello che abbiamo detto. Allora, più. grazie Ok. Alessandro, grazie Paolo. Alla prossima. Grazie, Ciao. aggiorniamo, a Sì. presto. Ci aggiorniamo.